Un venerdì mattina Aida decise che non valeva la pena di cercare di studiare e si mise a disegnare sulla lavagnetta. Tutti i bambini di prima facevano errori di ortografia apposta e ci ridevano sopra. La signorina Wilder li mandò tutti alla lavagna a scrivere e riscrivere le parole sbagliate e così si trovò di nuovo presa in mezzo tra quelli alla lavagna e quelli seduti nei banchi. Intanto Aida disegnava, dondolando i piedi e canticchiando tra sé senza nemmeno accorgersene. Laura si teneva i pugni sulle orecchie e cercava invano di andare avanti con le lezioni. Quando uscirono per l'intervallo, Aida le fece vedere il disegno. Era un ritratto comico della signorina Wilder, così ben fatto che le assomigliava moltissimo, anzi, sembrava quasi più somigliante del reale. Sotto ci aveva scritto: "Andare a scuola è un grande divertimento. Si ride e si scherza e c'è grande movimento. Nessuno obbedisce alla maestra famosa, Eliza Jane, la pidocchiosa." "C'è qualcosa che non torna nei versi, però", disse Aida. Anche Mary Power e Minnie erano venute ad ammirare il disegno e Mary Power disse: "Chiedi a Laura di aiutarti, lei è brava con le poesie." "Mi dai una mano, Laura, per piacere?" chiese Aida. Laura prese la lavagnetta e la matita e mentre le altre stavano lì a guardare, pensò a una melodia e poi ci adattò le parole. Voleva solo fare un piacere a Aida e forse un po' anche far vedere com'era brava. E invece della strofetta di Aida scrisse: "Andare a scuola è un gran divertimento, si ride, si scherza, c'è sempre fermento. E farsi beffe è la più bella cosa", di Eliza Jane, la pidocchiosa. La sua strofa piacque a tutte. Mary Power disse: "Ve l'avevo detto che Laura ci riusciva." In quel momento suonò la campanella. E l'intervallo era belle che volato. Un attimo dopo entrarono anche i ragazzi, facendo più baccano possibile. Passando, Charlie vide il disegno sulla lavagnetta. Aida rise e gliela lasciò prendere. "No!" esclamò Laura in un bisbiglio, ma era troppo tardi. Per tutto il resto della mattinata il disegno non fece che passare dall'uno all'altro. Laura era paralizzata dalla paura che la maestra se ne accorgesse e scoprisse il disegno di Aida con la strofetta nella sua grafia. Tirò un gran respiro di sollievo quando il disegno tornò indietro e Aida si affrettò a cancellarlo. All'ora di pranzo, quando uscirono nell'aria fresca e frizzante lungo tutta la strada dalla scuola al paese, si sentiva cantare: "Andare a scuola è un gran divertimento, si ride, si scherza, c'è sempre fermento e farsi beffe è la più bella cosa" di Eliza Jane, la pidocchiosa. Laura era senza fiato, si mise a gridare: "No, non devono cantare così, bisogna fermarli. Mary Power, Minnie, venite, ragazzi. Charlie, Clarence, non ti sentono", disse Minnie, "e comunque non riusciremo a farli smettere." I ragazzi erano già arrivati in Main Street e stavano separandosi, chi andava di qui, chi di là. Ora chiacchieravano e Laura aveva appena tirato un sospiro di sollievo quando uno ricominciò a cantare e tutti gli altri si unirono al coro. "Andare a scuola è un gran divertimento." Per tutta Main Street riecheggiò fortissimo di Eliza Jane la pidocchiosa. "Ah, non hanno un briciolo di buon senso", disse Laura angosciata. "Laura", disse Mary Power, "c'è solo una cosa da fare. Non diciamo chi ha scritto quei versi. Aida non lo dirà e nemmeno io." "Minnie neanche, no?" "Giuro", disse Minnie, "ma che ne sappiamo di Nellie Olson?" "Lei non lo sa. È stata a parlare con la signorina Wilder per tutto l'intervallo", disse Mary Power. "Neanche tu lo direi mai, no, Laura?" "No, solo se mamma e papà me lo chiederanno direttamente", disse Laura. "Non credo che gli verrà in mente e perciò non lo saprà nessuno", disse Mary Power cercando di confortarla. Mentre cenavano, Charlie e Clarence passarono sotto la finestra cantando quell'orribile strofetta e papà disse: "Non la conosco quella canzone. Avete mai sentito una canzone che parla di un'Eliza Jane la pidocchiosa?" "Mai sentita", disse mamma. "Non sembra una canzone carina, però." Laura non aprì bocca, era disperata. Quel pomeriggio intorno a scuola tutti i ragazzi cantavano la strofa. Tra loro c'era anche Willy, il fratello di Nelly. Nelly invece era con Aida accanto alla finestra. Si erano messe il più lontano possibile dalla signorina Wilder. Lei doveva aver capito la parte che aveva avuto Nelly in quella storia. Nelly era furibonda. Voleva sapere a tutti i costi chi aveva scritto quei versi, ma Aida non glielo aveva detto. Nessuno di loro avrebbe parlato. Ma era probabile che suo fratello venisse a saperlo. Glielo avrebbe detto e lei lo avrebbe riferito alla maestra. Quella sera Dopo la scuola e ancora per tutto il sabato si sentirono i ragazzi cantare quelle parole. Il tempo era bello ed erano tutti fuori. Laura sperava quasi che arrivasse una bufera di neve a chiuderli in casa. Si sentiva in colpa per aver contribuito a diffondere la malignità di Nelly ben più di quanto la stessa Nelly avrebbe potuto fare. Ma al tempo stesso pensava che la colpa maggiore fosse della signorina Wilder. Se non fosse stata così brutale e ingiusta con Carrie, Laura non si sarebbe mai cacciata in quel pasticcio. Quel pomeriggio venne Mary Power. Capitava spesso che lei e Laura passassero insieme i giorni di festa. Andarono a sedersi con il loro lavoro nella stanza che dava sulla strada, ampia e piena di sole. Laura stava facendo uno scialle all'uncinetto di morbida lana bianca da mandare a Mary per Natale. Mary Power stava facendo una cravatta di seta a maglia per suo padre. Anche mamma lavorava a maglia, seduta sul dondolo, e ogni tanto interrompeva per leggere loro qualche brano interessante dal giornale della chiesa, The Advance. Grace giocava lì intorno e Carrie cuciva i quadrati di una trapunta. Erano pomeriggi sereni. Dalla finestra entrava un fiotto di sole, la stufa a carbone scaldava la stanza. Kitty, che era ormai diventata una gatta adulta, si stirava ronfando pigramente sul tappeto oppure andava a strofinarsi contro la porta miagolando perché la lasciassero uscire a vedere se passava un cane. La gattina era diventata famosa in paese. Era così graziosa, bianca e grigio-azzurra, con la sua lunga coda e il corpo agile e flessuoso, che tutti volevano accarezzarla, ma lei si lasciava toccare solo dalla sua famiglia. Se un estraneo si chinava allungando una mano, tirava fuori le unghie e gli volava addosso. Di solito il malcapitato si salvava perché qualcuno faceva in tempo a gridargli: «Non tocchi quel gatto!» A Kitty piaceva stare seduta sui gradini d'ingresso a guardarsi intorno. I ragazzi, e qualche volta anche gli adulti, si divertivano ad aizzarle contro un cane che non la conosceva, per il gusto di vedere la scena, perché Kitty se ne stava lì tranquilla, senza muoversi, fin tanto che il cane si limitava a ringhiare e ad abbaiare, ma era pronta. E come il cane le si lanciava contro, lei saltava in aria con uno spaventoso miagolio e gli atterrava sul dorso con tutte le unghie fuori. Il cane scattava in una corsa forsennata e Kitty gli stava addosso senza mollare la presa per un bel tratto. Quando poi giudicava di essere abbastanza lontana da casa, si buttava a terra e lo lasciava continuare nella sua folle corsa, tornandosene indietro tutta soddisfatta. Le si potevano aizzare contro in quel modo solo cani che non la conoscevano, tutti gli altri stavano alla larga. Non c'era nulla di più piacevole di quei sabati pomeriggio quando la compagnia di Mary Power si aggiungeva alla serenità della giornata e di tanto in tanto c'era il diversivo offerto dalle prodezze di Kitty. Ma quel giorno Laura non era serena. Stava costantemente con l'orecchio teso per sentire se i ragazzi cantavano quel brutto ritornello. Aveva un grande peso dentro. «Lo dovrei dire a mamma e papà», pensava tra sé. E subito tornava a montarle dentro la collera nei confronti della signorina Wilder. Non aveva avuto nessuna intenzione di farle del male quando aveva scritto quei versi. E poi li aveva scritti durante l'intervallo, non nelle ore di scuola. Ma era tutto così difficile da spiegare. Magari invece si sarebbe tutto sgonfiato da sé, meno dici, prima rimedi. E se invece in quel momento qualcuno lo stava raccontando a papà? Anche Mary Power era crociata. Continuavano tutte e due a sbagliare e a dover disfare punti su punti. Quel pomeriggio il lavoro proprio non andava avanti. Nessuna delle due accennava alla vicenda, ma tutto il piacere dell'andare a scuola era scomparso. Non avevano nessuna voglia che arrivasse il lunedì mattina. Quel lunedì la situazione era peggiorata ulteriormente. Nessuno faceva neppure più finta di studiare. I maschi fischiavano, miagolavano, si azzuffavano tra loro. Tutte le bambine piccole, tranne Carrie, non facevano che parlottare e ridacchiare. Ogni tanto cambiavano addirittura posto. La signorina Wilder continuava a dire «Silenzio, silenzio, per cortesia!» ma nessuno le dava retta. A un certo punto bussarono alla porta della scuola. Laura e Aida, che erano le più vicine alla porta, si scambiarono un'occhiata, ma nessun altro aveva sentito, e quando bussarono di nuovo, Aida alzò la mano. La signorina Wilder non la vide. La terza volta sentirono tutti. Ora avevano bussato direttamente alla porta della classe. Poi la porta si aprì. Entrò papà. E nell'aula calò un silenzio di tomba. Dietro venivano altri due signori che Laura non conosceva. Buongiorno, signorina Wilder, disse papà. Il consiglio scolastico ha pensato di venire a fare una visita alla scuola. Oh, era ora che qualcuno intervenisse, esclamò la signorina Wilder. Si era fatta tutta rossa, poi impallidì e disse buongiorno ai due che erano entrati con papà. Li condusse alla cattedra. I tre restarono lì un momento a guardare i ragazzi nei banchi. Non volava una mosca. Il cuore di Laura batteva all'impazzata. Abbiamo sentito dire che c'è qualche problema di indisciplina, disse con garbo, ma con severità, il signore più alto e solenne. Infatti, e sono contenta di poter dire a lor signori come stanno le cose, rispose la signorina Wilder rabbiosamente. È Laura Ingalls che rende le cose difficili qui dentro. Pensa di poter essere lei a dirigere la scuola solo perché suo padre fa parte del consiglio. Sì, signor Ingalls, è così. Si vanta di poter fare il bello e il cattivo tempo. Crede che io non lo sappia, ma invece lo so. E così dicendo, rivolse un'occhiata di rabbioso trionfo a Laura. Laura era senza parole. Com'era possibile che la signorina Wilder raccontasse tante menzogne? Mi spiace sentire queste cose, signorina Wilder, disse papà. Sono certo però che Laura non aveva intenzione di creare disordine e metterla in difficoltà. Laura alzò la mano, ma papà fece brevemente segno di no con la testa. E poi spinge i maschi all'indisciplina, e questo è il problema, dichiarò la signorina Wilder. Laura Ingalls li sprona a disobbedire e a rispondere male. Papà guardò Charlie. Lui aveva gli occhi che ridevano. Giovanotto, disse, ho sentito che sei stato punito perché ti sei seduto su uno spillo. Oh no, signore, rispose Charlie, sono stato punito perché, essendomi seduto su uno spillo, non ci sono rimasto sopra, ma sono scattato in piedi. Il tipo più o meno dei tre consiglieri soffocò il riso in un improvviso accesso di tosse e si videro fremere anche i baffi del tizio più solenne. La signorina Wilder si fece di porpora. Papà era rimasto perfettamente serio, a nessun altro venne da ridere. Lentamente, pesando ogni parola, papà disse: Signorina Wilder, sappia che il consiglio scolastico intende sostenerla per mantenere l'ordine nella scuola. Si voltò a guardare i ragazzi nei banchi. Voi tutti siete tenuti a obbedire alla signorina Wilder, a comportarvi come si deve e a studiare con diligenza. Vogliamo che la scuola del nostro paese sia un'ottima scuola e faremo in modo che così avvenga. Quando papà parlava con quel tono, non c'era da scherzare, non volava una mosca. Il silenzio continuò anche quando i tre signori del consiglio ebbero salutato e furono usciti. Nessuno fiatava, nessuno sbatteva i libri, ognuno faceva quello che doveva fare in silenzio, mettendoci tutta l'attenzione necessaria. A casa, Laura se ne stette zitta. Che cosa le avrebbe detto papà? Ma non toccava a lei aprire il discorso. Era papà che doveva decidere se e quando parlare di quello che era successo a scuola. Lui non disse nulla finché non ebbero finito di cenare e di lavare i piatti e tutti furono di nuovo seduti attorno al tavolo nel cerchio di luce della lampada. Allora, posando il giornale, disse: E ora che tu spieghi che cosa hai detto e a chi, per far credere alla signorina Wilder che pensi di poter dettare legge a scuola, visto che io faccio parte del consiglio scolastico. Non ho mai detto una cosa del genere, nemmeno l'ho mai pensata, disse Laura. Lo so. Disse papà. Ma c'è stato qualcosa che l'ha fatto credere. Prova a pensare che cosa può essere stato. Laura cercò di pensare. Non era preparata a quella domanda perché dentro di sé si era preparata solo a difendersi e a sostenere che la signorina Wilder mentiva. Non aveva cercato di capire che cosa potesse averla indotta a dire quello che aveva detto. Hai parlato con qualcuno del fatto che faccio parte del consiglio? Chiese papà. Nellie Oleson ci aveva alluso spesso, ma lei aveva sempre soltanto sperato che smettesse e non le aveva mai dato corda. Poi le venne in mente il battibecco che aveva avuto il giorno in cui Nellie era stata lì lì per prenderla a schiaffi. Nellie Oleson un giorno mi ha detto che la signorina Wilder aveva detto che tu a scuola non hai voce in capitolo, anche se appartieni al consiglio, e io ho risposto. Quella volta si era arrabbiata tanto che ora le veniva difficile ricordare con precisione le parole che aveva detto. Ho risposto che hai voce in capitolo come chiunque altro. E poi le ho detto: peccato che tuo padre non abbia casa in paese. Forse se non foste solo contadini, anche tuo padre sarebbe nel consiglio. Oh, signore, Laura, mormorò mamma, questo l'avrà fatta arrabbiare. Volevo farla arrabbiare. disse Laura. Era proprio quello che volevo. Quando stavamo al Plum Creek, lei ci prendeva sempre in giro, Mary e me, perché eravamo figlie di contadini. Adesso vede anche lei come ci si sente. Laura, Laura, disse mamma, come puoi essere così vendicativa? Sono passati anni. Ed è stata anche sgarbata con te e cattiva con Jack, disse Laura con le lacrime agli occhi. Non ci pensare, disse papà. Jack era un buon cane e ora è là dove vanno a riposare i buoni cani. Dunque Nelly ha distorto quello che hai detto e lo ha riferito alla signorina Wilder. Ora capisco. Riprese il giornale. Beh, Laura, spero che questa storia ti abbia insegnato qualcosa. Ricordati quello che dice il proverbio: prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano pena. Restarono tutti in silenzio per qualche minuto e Carrie si mise a fare i compiti. Poi mamma disse: Portami il tuo album, Laura, vorrei scriverci sopra una cosa. Laura andò a prendere l'album nella sua scatola di sopra e mamma si mise a scrivere con la sua bella penna dal manico di madreperla. Poi asciugò il foglio con la carta assorbente e le restituì l'album. Sulla pagina color panna aveva scritto, con la sua grafia nitida ed elegante: Se i modi di saggezza ti son cari, hai cinque cose a cui badare. Chi ascolterà le tue parole, di chi o cosa vorrai parlare, e il come, il quando e il dove del tuo discorso valutare. La tua mamma con affetto, Caroline Ingalls. 5 novembre 1881. Biglietti da visita. Avevano fatto tanti preparativi per l'inverno e l'inverno non arrivava mai. Le giornate erano invariabilmente limpide, non c'era neve sul terreno gelato. Il trimestre finì e la signorina Wilder tornò in Minnesota. La sostituì il signor Clewitt, un insegnante che non perdeva mai la calma, ma sapeva farsi rispettare e tenere la disciplina. In classe non si sentiva più altro rumore che il bisbiglio degli allievi che ripetevano la lezione e sui banchi non si vedevano che teste chine sui libri. Erano tornati a scuola anche tutti i ragazzi grandi. C'era Cap Garland con il volto scurito dal sole, gli occhi azzurri e i capelli così chiari da parere quasi bianchi. Aveva sempre lo stesso sorriso contagioso, rapido come il lampo e più caldo del sole. Nessuno aveva dimenticato il viaggio spaventoso ed estenuante che aveva fatto l'inverno precedente con Almanzo Wilder per andare a prendere il frumento che aveva salvato il paese dalla morte per fame. Erano tornati anche Ben Woodworth e Fred Gilbert, il figlio del colono che era andato a prendere la posta col carro quando già i treni non funzionavano più, e Arthur Johnson, il fratello di Minnie. Non c'era un filo di neve. Durante l'intervallo i maschi uscivano in cortile e le ragazze grandi non andavano più a giocare fuori. Nelly lavorava all'uncinetto, Aida, Minnie e Mary Power stavano alla finestra a guardare i giochi dei ragazzi. A volte le raggiungeva anche Laura, ma di solito restava a studiare al suo posto. Si sentiva addosso una specie di urgenza, il timore di non farcela passare gli esami e a prendere l'abilitazione da maestra appena avesse compiuto 16 anni. Ora ne aveva quasi 15. Dai, Laura, vieni a vedere questa partita, le disse un giorno Aida. Hai un anno intero davanti per studiare. Laura chiuse il libro, le faceva piacere che le sue amiche la volessero con loro. Nelly fece un gesto sprezzante con la testa. Per fortuna a me non toccherà dover fare la maestra, disse. I miei ce la fanno senza che io debba mettermi a lavorare. Laura dovette fare uno sforzo per non alzare la voce. Buon per te, Nelly, rispose suavemente, ma noi, sai, non siamo i parenti falliti che vengono aiutati dalla famiglia rimasta all'est. Nelly si infuriò tanto che lì per lì non riuscì a rispondere. Se Laura vuole diventare maestra, si intromise Mary Power, non è affare tuo né di nessun altro. È molto intelligente, diventerà una maestra bravissima. Sì, disse Aida, è molto più avanti di tutte noi e... Si interruppe perché era entrato Cap Garland. Arrivava in quel momento dal paese e aveva in mano un sacchettino di carta a righe. Ciao ragazze! Disse guardando Mary Power con un gran sorriso e porgendole il sacchetto. Caramelle? Nelly fu più lesta. Oh, Cappy! Strillò afferrando il sacchetto. Come fai a sapere che adoro le caramelle? Le migliori che ci siano in paese, per giunta. Lo fissava sorridendo con uno sguardo che Laura non aveva mai visto. Cap Restò interdetto. Poi fece una strana smorfia di sgomento. Ragazze, ne volete una? Continuò Nelly tutta zucchero. Passò dall'una all'altra il sacchettino aperto e quando ognuna ebbe preso una caramella se ne mise una in bocca anche lei e nascose il resto nella tasca della gonna. Cap lanciò un'occhiata implorante a Mary Power, ma lei scosse indietro la testa e si voltò a guardare fuori dalla finestra. Beh, lieto che vi piacciano, disse Cap incerto e andò a raggiungere i compagni in cortile. Il giorno dopo, a mezzogiorno, portò un altro sacchettino di caramelle. Di nuovo fece per offrirlo a Mary Power e di nuovo Nelly fu più lesta. Oh, Cappy, sei un tesoro a portarmi sempre le caramelle, esclamò con voce mielosa. Questa volta non offrì nulla alle altre, aveva occhi solo per Cap. Non devo fare l'ingorda e tenermele tutte per me. Prendine una anche tu, Cappy. Lui prese una caramella e lei, succhiandone una dopo l'altra, si mise a chiacchierare tutta moine e smancerie. Cap aveva l'aria un po' imbarazzata, ma anche compiaciuta. Laura pensò che non ce l'avrebbe mai fatta a tener testa a Nelly. E Mary Power era troppo orgogliosa per entrare in competizione con lei. Possibile che una così debba sempre averla vinta? Pensava irritata. E non era solo per le caramelle. Fino alla ripresa delle lezioni, Nelly fece in modo che Cap restasse lì ad ascoltarla. Le altre finsero di non vederli. Laura chiese a Mary Power di scriverle qualcosa sull'album. A parte Nelly, che non ne aveva uno, tutte avevano portato il loro album a scuola. Mary Power andò a sedersi, prese penna e inchiostro e si mise a scrivere con cura nella sua bella grafia elegante. Le altre le si raccolsero intorno a guardare. Mary scrisse: Se anche appassisce la bella rosa e lieta giovinezza se ne va, l'amicizia non è caduca cosa e tra noi in eterno fiorirà. L'album di Laura conteneva già tanti bei pensieri. Mamma ci aveva scritto il suo saggio consiglio e sulla pagina accanto Aida aveva aggiunto: Nel dorato forziere della memoria nascondi una perla per me, la tua affezionata amica Aida B. Wright. Di tanto in tanto, sopra la spalla di Nelly, Cap lanciava un'occhiata sgomenta, ma loro non badavano né a lui né a Nelly. Anche Minnie Johnson chiese a Laura di scrivere qualcosa sul suo album. O solo se anche tu scrivi sul mio, disse Laura. Ci provo se vuoi, ma la mia grafia non è bella come quella di Mary. La sua sembra incisa nel bronzo, disse Minnie. Poi scrisse: Quando il nome che scrivo sarà impallidito e il foglio dell'album vedrai tutto ingiallito, rivolgi un pensiero amichevole a me e ricorda che anch'io sto pensando a te. Minnie Johnson. La campanella suonò e tutti tornarono ai loro posti. Quel pomeriggio, durante l'intervallo, Nelly ebbe da ridire sugli album. Sono passati di moda, ne avevo uno anch'io una volta, ma ormai è roba antiquata. Nessuno le credette. All'est, da dove vengo io, adesso vanno di gran moda i biglietti da visita. Che cosa sono? Chiese Aida. Nelly si finse sorpresa, poi sorrise. Già, è naturale che tu non lo sappia. Domani te ne porto uno a vedere. Ma non te lo do perché tu non ne hai uno da dare a me. È buona educazione scambiarseli. Oggigiorno all'est tutti si scambiano i biglietti da visita. Non le credettero. Non era possibile che gli album fossero passati di moda perché loro li avevano da poco. Mamma aveva comperato quello di Laura a Vinton, in Iowa, a settembre. Tornando a casa, Minnie disse: Si inventa tutto quella. Non ci credo che ha i biglietti da visita. Secondo me non esistono. È una delle sue sbruffonerie. Ma l'indomani mattina, Minnie e Mary Power avevano tanta fretta di vedere Laura che andarono a prenderla a casa. Mary Power aveva scoperto che cos'erano i biglietti da visita. Ne aveva parecchi Jake Hope, quello che faceva il giornale alla tipografia. Erano biglietti colorati con disegni di fiori e uccelli su cui il signor Hope poteva stampare il tuo nome. Non ci credo che Nellie Olson li ha, disse Minnie. Ha scoperto cosa sono prima di noi, tutto qui. Vuole procurarseli e farci credere che vengono dall'est. E quanto costano? Chiese Laura. Beh, dipende dal disegno e dal tipo di carattere, disse Mary. Io ne ho ordinati 12 con un disegno semplice per 25 centesimi. Laura non disse nulla. Il padre di Mary Power faceva il sarto e poteva lavorare tutto l'inverno. Ma ora che non c'erano cantieri aperti in paese, né ce ne sarebbero stati fino a primavera, papà aveva 5 bocche da sfamare a casa e Mary da mantenere all'università. Era una follia anche solo pensare di spendere 25 centesimi per il proprio piacere. Il giorno dopo Nelly non portò a scuola i biglietti da visita come aveva promesso. Quando si raccolsero tutte accanto alla stufa, dove lei stava scaldandosi le mani dopo la lunga camminata che le toccava fare ogni mattina, Minnie le chiese subito se li aveva. Oh, cielo, me ne sono completamente dimenticata, disse Nelly. Dovrò legarmi un nastrino al dito per ricordarmelo. Minnie lanciò alle altre due un'occhiata che significava: cosa vi avevo detto? A mezzogiorno Cap arrivò di nuovo con un sacchettino di caramelle e, come al solito, Nelly si era messa vicino alla porta. Come lo vide, cominciò a tubare. Oh, Cappy! Ma quando stava per afferrare il sacchetto, Laura fu più lesta, glielo tolse praticamente di mano e lo passò a Mary Power. Restarono tutti esterrefatti, Laura compresa. Poi Cap si illuminò in viso, lanciò un'occhiata riconoscente a Laura e guardò Mary. Grazie! Gli disse Mary facendo girare il sacchetto. Siamo tutte ghiotte di caramelle. Cap se ne tornò fuori, ma sulla porta si voltò un istante con un sorriso radioso. Ne vuoi una, Nelly? Chiese Mary Power. Certo. Nelly si scelse la più grossa. Le caramelle di Cap sono deliziose. Quanto a lui, bah, te lo puoi tenere quel bamboccio. Mary Power arrossì, ma non rispose. Anche Laura si sentì avvampare. Te lo prenderesti anche tu se potessi, disse. Lo sapevi benissimo che le caramelle erano per Mary. Figurarsi, potrei rigirarmelo attorno al dito se solo volessi, si vantò Nelly. Ma non è proprio granché, è quel suo amico che voglio conoscere, il giovane Wilder, quello col nome così buffo. Presto mi vedrete, aggiunse con un sorriso compiaciuto, su quel calesse. Ci riuscirà di sicuro, pensò Laura. Considerato quanto aveva cercato di fare amicizia con la signorina Wilder, era strano che ancora non fosse stata invitata a fare un giro. Quanto a lei, dopo quello che era successo, sapeva di essersi giocata ogni possibilità.